24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina, e noi vogliamo elettori il bagno alla turca. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Tripiedi a titolo personale, prego. Grazie Presidente, breve e circonciso, ma secondo voi perché Confindustria coinciso, preme... quella è un'altra cosa. Conciso, ho sbagliato, conciso. Prego. È un gran classico, sarò breve e circonciso. Dai tempi di Antonio Albanese, eccetto la qualunque, credo non sia neanche il primo parlamentare che si sia espresso così. Sarò breve e circonciso. Sono le 6:33 minuti, voglio subito salutare Paola Saluzzi. Tanto ti sento già, aiuto! Ti sento ridere, eh? Tanto guarda che si sente che ridi, anche se fai finta di niente. Vogliamo, come dice Benigni, no, insomma, vogliamo delle soluzioni. Buongiorno Alessandro. Buongiorno. Era l'onorevole Tripiedi. Sì, per favore, aiuto. Vabbè, facciamo, ma dai, qualcosa di operativo. Ma può capitare di sbagliare adesso, su. Hai voglia, io sono sempre nel terrore di questi errori. Terrore, il panico. Infatti, l'importante è che sia stato veramente circonciso. Buongiorno, come state? Buongiorno, benissimo, cara Paola. Sta benissimo anche Miriam Lucchetti, sta benissimo anche Pietro Lacorte, che ha detto, fa una petizione a Radio 24 qui a dire: svegliatemi tutti i giorni alle 3 perché voglio sempre essere in diretta a quest'ora a fare la regia. Si capisce dall'atteggiamento, si è spigliato, è qui in regia con noi. E c'è anche Luca Dini, che saluto. Luca, buongiorno. Il direttore di Vanity Fair, che ha twittato l'ultima cosa 3 ore fa, credo. 5 ore fa. Cinque ore, va bene, allora può andare. 5 ore di sonno sono più che sufficienti. Vogliamo aprire il nostro Parlamento. Che oggi il caffè volentieri a tutti quanti. Oggi vede un giorno veramente decisivo, devo dirlo io. Cara Paola, è il giorno decisivo. Oggi è la Lino Milan Day. No, ma in realtà, ecco, io vorrei porvi questo problema. Subito un problema, perché forse oggi c'è l'approvazione al disegno di legge del Rio, quello delle province. Però, visto che qua contiamo, è la 47esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Ecco, siccome questa cosa non abolisce le province, io vi chiedo: cosa faccio da domani? Cioè, è una domandona. Lavori. No, ho capito. Alla gestione del che cosa si è diventata l'abolizione delle province e che cosa significhi per il nostro paese, quindi lavorerai alla gestione della spiegazione per il tuo pubblico di che cosa voglia dire da oggi in poi provincia. Vabbè, tutto in 140 caratteri. Sì, ho capito, ma io devo twittare che la settimana prossima è la 48esima settimana decisiva per l'abolizione delle province, sì o no? Per me sì, perché ci sono ancora le province. Tu, Paola, che dici? C'è ancora da lavorare. C'è secondo da lavorare. Me arriviamo anche alla 52esima settimana, però si sta lavorando, questa è la grande notizia. Finalmente si sta lavorando. Non lo so. Ottimismo spietato. Ottimismo, il direttore, sì. Luca Dini, cosa ti... E infatti, direttore, cosa devo fare? Devo stanno rompendo il giocattolo. Mi stanno rompendo il giocattolo. Sempre meglio il giocattolo che altro. Ma no, non lo so, cosa devo fare? È un problema che mi sta angustiando, non ci dormo la notte. Io... No, ti devi trovare un altro tema. Vabbè, la riforma elettorale, tanto quella c'è. Esatto. Però le province ci sono ancora, questa è la questione. Io continuo a contare. Paolo, ho deciso così. Ma le province non possono evaporare e sparire così. L'importante è che questa idea si concretizzi in una già in una buona soluzione rispetto a quello che c'è. Già in uno snellimento. Sì. Cioè, io vedo questo periodo, visto che siamo in aperta primavera, nonostante qui aspettiamo la bomba d'acqua con Obama che poverino vedrà una Roma, ma Roma bagnata, Roma fortunata. A piove? Beh, sì, insomma, dimostra di avere voglia di più o meno, insomma, questa è l'intenzione. Dobbiamo, sai che di primavera ci sono subito le operazioni, ecco, dimagrisco, butto giù i chili dell'inverno. Ecco, immaginiamo che il paese sia in una forma, in una volontà di forma smagliante e voglia dimagrire, ivi comprese le province, nel senso di quello che costa. Sto facendo un giro di parole. Ma che ti hanno dato una consulenza a Palazzo Chigi? Inutile, sono parole inutile per dire fate qualcosa. Comunque oggi pare ci sarà la fiducia, forse vuole imporre la fiducia Renzi, perché i numeri sono risicati e chissà. E vabbè, io continuo a contare, ho deciso così, caro Lucadini, mi piace. Va bene lo stesso. Va bene, conta. Vabbè, come il giochino che si dà a quelli di 5 anni, vabbè, divertiti così. Allora, però il vero tema che ancora torna è la questione della pubblica amministrazione, insomma questi stipendioni. Oggi il Sole 24 Ore fa l'elenco di tutti quelli che vengono definiti i privilegi. Per esempio, sapete che nel corpo diplomatico nessuno guadagna sotto gli 80.000 euro lordi l'anno? Queste sono alcune delle cifre, pure i magistrati ovviamente guadagnano molto. Posso dire una cosa? Sì. Io più che andare a cercare, per carità, nei robusti stipendi, andrei a correggere e a cercare nelle esagerate ed esasperate buone uscite, no, non si possono definire così. Insomma, quando tu smetti di lavorare in un luogo e hai guadagnato l'ira di Dio, vai via e porti con te una cifra molto alta. Vogliamo definirla così? In teoria, molto se vuoi alta. Il TFR, no? Quello. Sì. Cioè, ci sono cifre che non giustificano, anche se uno mi può dire, io ho versato, sì, sono esasperate. E sono anche esasperanti di questi tempi. Quindi, oltre allo stipendio in sé e oltre alla proposta di Renzi che dice c'è un tetto, c'è un Presidente della Repubblica, vediamo di non stare sopra il Presidente della Repubblica. Anche queste buone uscite, dice. Ci sono anche queste buone uscite, francamente un po' inquietanti. Però io vorrei capire, Lucadini, quanto c'è di tutto questo dibattito, secondo te, di giusto, e quanto c'è anche un po' di populista in questo momento, no? In questo momento in cui tutti a spulciare quanto guadagnano le persone. Ma c'è sicuramente populismo, però è anche vero che è un momento in cui l'esempio è fondamentale, cioè dimostrare che, cioè, è ovvio che non sarà cambiare queste situazioni che risanerà i conti dell'Italia, però nel momento in cui tu chiedi sacrifici a tante persone è un segnale importante, io ci credo abbastanza. Ci credi? Per esempio questo dibattito sulla questione dello stipendio di Moretti, intanto lo vogliamo sentire Moretti che pare un po' già tornato sui suoi passi, sentite cosa ho detto, non ho mai detto che voglio andare via. Tutto il resto non l'ho detto io, l'avete scritto voi, io non ho mai detto che vado in Germania o in Francia, anche perché come noto sono molto italiano, ho cercato di lavorare per l'impresa italiana, vorrei continuare a farlo. È che non gli sono arrivate le offerte, capito? Non lo so. Sta di fatto che, insomma, anche qui questa polemica, forse tante volte basta non dire effettivamente le cose in maniera così, no? L'ha detto in modo un po' sfrontato, se non guadagno 800.000 euro io vado via, no Paola? Forse poteva... A volte bisogna... anche il modo, la forma, no? Il modo, la forma e il fatto di esprimersi liberamente, e poi ovviamente le sue parole vengono prese e quelle rimangono, insomma, rimangono come l'omino della Plasmon, vengono scritte sul muro e quindi lì rimangono. Sicuramente la fase è tale per cui se i manager pubblici si guardano e decidono di fare uno sforzo corale comune per tutti, non è, quando si dice non è questo che risolverà i problemi, è chiaro che noi siamo di fronte a problemi più ampi, però è la logica del mosaico, Nessuna tessera è il mosaico, no? Però comincia a toglierne 4, 5, 6, 10, 8, 12 e vedi che qualcosa certo. accade. Ah, ma è chiaro, oppure è chiaro. Comincia a metterne 4, 8, 12 e vedi che comincia a fare il mosaico. Insomma, ecco, il concetto è questo. No, poi no, meno ma parole più fatti. Meno parole più fatti. A proposito di meno parole più fatti, sapete che giorno è oggi? È il 26 marzo. Sta finendo marzo, quindi, no? Sì. Ecco, allora, il premier Matteo Renzi, no, quando si è insediato, ha detto, ve lo ricordate, no, questa frase? Entro il mese di febbraio un lavoro urgente sulle riforme costituzionali e elettorali e da subito dopo, nei mesi successivi, immediatamente nel mese di marzo la questione del lavoro, nel mese di aprile la riforma della pubblica amministrazione, nel mese di maggio quella del fisco. Insomma, caro Luca Dini, le riforme costituzionali, hanno approvato la legge elettorale alla Camera adesso. Marzo, il lavoro, ti risulta qualcosa? Non so, siamo al 26. Ci sono 5 giorni, insomma, dai. Sì, effettivamente siamo ottimisti. L'ottimismo di Paola Saluzzi è incommensurabile, ci dirà che insomma ci sono ancora 5 giorni. Però a meno di una riforma lampo sul mercato del lavoro, ma anche lì, ma perché? Cioè, la politica italiana è la politica dove si dicono le cose e poi ma perché uno facciamo lo deve una dire? Facciamo una cosa. Sì. Si è parlato di luglio, col sì, bene che ti voglio, sì, come tempo nel quale riuscire tutto a fare là, tutto questo. Tutto là, va bene. Proviamo a pensare, ma io lo dico, guarda, non a difesa di, ci mancherebbe altro. No, ma con l'ottimismo dico, che ti contraddistingue. Siamo a difesa del paese, ecco, benissimo. Adesso c'è la scadenza di maggio per quegli 80 euro, questo sì. Mm-hmm. Questo sì, sì, gli 80 euro in questo, più in tasca, questi devono arrivare, perché insomma se a noi dicono alza alle 3 del mattino e vai a fare la diretta tutti i giorni, lo facciamo. Non è che lo dica, no, aspetta, momento, sì, però lo facciamo. No, lo facciamo. Però per tutte queste riforme vogliamo darci il mese di luglio? Vogliamo aspettare? Aspettiamo, attendiamo. Ma le vogliamo sul tavolo. Va bene, Luca, attendiamo così, insomma, attendiamo fiduciosi. Ma sì, dai, abbiamo aspettato tanto, mi sembra che adesso... Sì. Non è il caso di fargli... Adoro la saggezza di Luca Dini. Oh, la saggezza tra di Luca Dini. L'ottimismo mio e la saggezza di Luca Dini, possiamo spostare il mondo. Intanto vedete che io devo continuare a contare. Ero single, mi scrive un ascoltatore. Quando hai iniziato a contare, oggi convivo e ho una figlia. Ciao, quindi mi scrive un ascoltatore. Quindi vedete che porta anche bene, porta una figlia. La chiamata provincia, la figlia. Provincia, esatto. La figlia chiamata provincia. Provincia, lo so. Ah, c'è anche un la soave Paola. Ogni parola un inno alla vita, un ode al cuore, un peana all'eros. L'ha scritto un ascoltatore. Ma prima mattina, ma non solo, ma sentiamoci tutti i giorni. Va bene, per la verità c'è anche chi scrive: Saluzzi, non piove a Roma, caccia fuori la testa. Che... Ma caccia fuori la testa, qui sopra la testa mia è tutto grigio, io capisco, ma sta va per bene, piovere. Non piove, no, è vero, non piove, è grigio. Sta per piovere, sta per non piovere. Siamo pessimisti. È grigio, bene, esatto, potrebbe stare detto, per piovere. Il contadino di Terni, che dice? Il contadino di Terni, non lo so, cosa dice? Perché io la sento, sai, la tua segreteria telefonica che chiude con quella sigla tutti i giorni. Ah, va bene, il contadino di Terni magari adesso lo recuperiamo. Intanto andiamo al traffico e poi appunto alla segreteria telefonica. 24 mattino. Caro Milan, come stai? Che te pozzi in un pigliafuoco? Hai sentito quello poro Moretti? Siamo fatto una colletta. Sì, tutti quanti noi siamo messi insieme e mi raccordo 60 centesimi. Ah, poi siamo fatto un'altra cosa, adesso stiamo studiando il referendum per creare lo stato agricolo della zappa. A Milan, di acquisti che se stiano attenti, che se stavolta sbagliano, so cavoli amari, Ma perché nessuno ricorda che Moretti è un trombato della politica? Eh sì, perché lui da sindacalista aspirava a una carriera politica, non gliel'hanno trovata, l'hanno piazzata nelle ferrovie. È un trombato dirottato nella pubblica amministrazione. I manager delle aziende di Stato che producono dovrebbero essere assimilati agli imprenditori, quindi non avere lo stipendio ma partecipare agli utili. D'altra parte hanno già il vantaggio che se ci rimettono non pagano loro ma ci rimettiamo noi. Chi viene a esporre all'Expo a Rho in un paese in crisi, in un'area geografica in crisi, dove non c'è più mercato, le aziende chiudono ogni giorno, ma chi potrà venire? La Federazione Calcio Inglese non ha concesso al presidente del Cagliari, Cellino, di acquistare il Leeds United perché è condannato per evasione fiscale. Ste inglesi ci hanno copiato, da noi succede da sempre. Chi è condannato qui, chi ha avuto dei problemi con la legge, non è mai successo che abbia avuto dello spazio, che abbia avuto. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. Va bene, è tornato, l'hai sentito Paola? Io non lo sapevo, giuro, ma io non lo sapevo, lo sapeva solo Miriam Lucchetti, perché non l'ascolto mai prima, è tornato. Cos'è che facciano pigliafuoco, è meraviglioso. Sì, esatto, esatto, saluto, salute Milan, come te fossero pigliafuoco. Saluto anche te, caro contadino, con lo stesso affetto, ovviamente. Vuol fare lo stato agricolo della zappa, no? Va bene. Va bene. Oh, ma tutti contro Moretti, ma questa cosa, ma Luca, ha scatenato proprio, no, un po' di rabbia popolare, devo dire. Però è vero, cioè, quella cosa lì se la poteva proprio tenere. Come dico io, è proprio la forma, cioè, anche se puoi pensare di avere ragione, forse dire 800.000 euro, se no io me ne vado via. Dov'è? È questione di rispetto per gli altri. Questione, sì, esatto. Non è un peccato, non è un male guadagnare 800.000 euro, ma insomma, esibirlo così e dire con quell'arroganza, forse anche no. Cara Paola, qui voglio introdurre un argomento che è molto a cuore a te, ma non solo a te. Ma oggi ho letto una notizia che mi ha molto inquietato, perché la scorsa settimana io ho fatto il tuo appello, no, la violenza contro le donne. Sai che oggi sul Corriere della Sera c'è questa notizia che mi ha sconvolto: ricoverata 15 volte per le botte, non denuncia, non l'ha mai denunciato. Alla fine è andato dentro, perché alla fine i carabinieri, insomma, quando hanno capito che questi ricoveri erano dovuti non perché cadeva dalle scale, non perché inciampava, non perché, sono andati a prendere questa persona, ovviamente l'hanno incarcerato. E lei ancora dice: no, ma io lo amo. Io in realtà sto bene con lui. Allora, lei è da ricoverare non per le ferite. Capisci? Perché purtroppo, lo dico non da ricoverare con tono sprezzante, perché purtroppo queste persone, queste donne, alcune di queste donne, alla fine si ammalano di una malattia che è assai peggiore del setto nasale rotto o dei lividi che ti fanno dire la bugia e l'energia. Entri in una mentalità per la quale, in uno stato mentale per il quale tu giustifichi il mostro. Ed è pericolosissimo, perché in realtà qualsiasi cosa si faccia contro un uomo del genere, si troverà sempre questa donna che torna a casa. No, ma è chiaro. Non è masochismo. No, ma è chiaro, in questo caso è proprio anche il rapporto malato, oltre che la persona, intanto lui che usa queste violenze. Però insomma, mi ha molto colpito questa notizia, e quindi te la volevo proporre, perché poi l'approfondiremo anche in rassegna stampa. Come mi ha molto colpito, devo dire, e io sapete che ho sempre questa scelta, no, dell'articolo di Vanity Fair che leggerò. Intanto la copertina, vabbè. Chi c'è? E c'è Cameron Diaz. Wow. Cameron, non quello britannico. Eravate lì dibattuti di la verità, ma mettiamo una bella copertina su Cameron o su Cameron Diaz? E alla fine ha vinto Cameron Diaz, è vero. C'era anche James Cameron, c'erano tre. Esatto. No, però mi ha molto colpito questa storia, che è passata peraltro anche a Radio 24, di questo libro, di questo carabiniere che è stato un anno nei lager della Nord Corea. Sì, pazzesca questa storia, veramente. Ma è incredibile, cioè, ne ha scritto un libro. Ma come si finisce in Corea del Nord per un carabiniere? Rosse? Sì, ma no, è una storia intricatissima, devo dire, molto molto complicata. Bisogna io fatico anche, devo dire, no, ci credo, ma è veramente una di quelle storie, cioè se sei nei servizi segreti ti possono succedere cose allucinanti, Come questo. Come a questo carabiniere, per l'appunto, che è finito per una missione internazionale del ROS, quindi i servizi segreti, cioè le parti speciali, meglio, sì. È finito catturato tra la Cambogia e portato un anno nei lager della Corea del Nord. Sì, e poi c'è dietro tutta questa storia delle super notes, questi dollari falsi ma in realtà irriconoscibili, che vengono stampati per finanziare operazioni illecite, insomma. Una cosa intricatissima. Una cosa incredibile. Le mie urla nel silenzio, che rievoca questo straordinario anche film sui Khmer Rossi, sulla Cambogia. E quindi, lo leggerò certamente su Vanity Fair, così come oggi, Paola. Io mi leggerò anche l'oroscopo di Capitani su Vanity Fair. Ora lo voglio dire, non lo perdo mai. Mi piace. E come mai te l'hai ritenuta questa cosa? Oggi giornata di oroscopo. Allora ti lascio così, cara Paola. La voce di Paola ogni mattina è una pillola colorata. Oh, che meraviglia! Cioè, abbraccio e bacio a chiunque l'abbia scritto. Vedete, io vedo sempre il male ovunque. Cioè, che droga sei, la pillola colorata? No, non lo so. Vedo sempre l'aspetto negativo delle cose. Che droga sei? Il Prozac. Va bene. E allora alle 3, cara Paola, tu farai politica, ovviamente. Siamo con Giovanni Toti e chiederemo cosa succederà all'interno. A Forza Italia. Ai. Intanto ci fanno sapere che in Via Alfieri c'è il sole. Oh, ma dove vivi? Saluzzi, dove vivi? Ma effettivamente è solo nuvolo, dai. Arriverà Obama a portare il sole, questa è la verità. È prevista pioggia, l'ha detto. Vabbè, staremo a vedere, grazie, alla prossima. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui alle 7:18 minuti, forza debosciati d'Italia, che bisogna produrre, lo dico anche a Pietro Lacorte che oggi è in regia. Dai, bisogna attivarsi. Vi ricordo che oggi parleremo di carceri italiane. Perché? Perché c'è questa mannaia che incombe dall'Europa. Sapete che ci sono 2, forse 3.000 ricorsi di detenuti che sono nelle carceri italiane in condizioni considerate inumane dall'Unione Europea e dai parametri dei diritti umani, e quindi ci sono delle multe che incombono, tanto che si è vociferato a dire il piano carceri, a dire, ma insomma, piuttosto che incombere in queste multe che possono arrivare fino a 50 a 100 milioni di euro, visto che alcune multe ci sono già state comminate allo Stato italiano, forse è il caso di liquidare con quella che è stata definita da alcuni addirittura la paghetta, comunque liquidare con una somma i detenuti piuttosto che evitare cause. Questo ha generato molte molte polemiche, ne discuteremo dalle 8:15, avremo con noi l'avvocato che ha seguito alcune cause di detenuti che hanno vinto ricorsi contro lo Stato italiano, l'avvocato Rosso Di Vita, anche un esponente dei radicali, avremo con noi l'ex ministra della giustizia Castelli, avremo con noi anche il procuratore di Reggio Calabria Nicola Gratteri, questo alle 8:45. Ora però andiamo a sfogliare i giornali che trovate in edicola. È mercoledì 26 marzo, i titoli, il Sole 24 Ore apre su stipendi pubblici, la mappa dei privilegi, c'è proprio questa mappa che poi vedremo con tutti gli stipendi. Il Corriere della Sera invece, la battaglia delle province, titolo di prima pagina, e qui ci sarà subito da aprire il capitolo su che fare, contare o non continuare a contare la questione delle settimane decisive per l'abolizione delle province. Io ho preso una decisione e tra poco la comunicherò. Province, il governo rischia e Renzi pensa alla fiducia, così è il titolo di apertura della Stampa, mentre il Messaggero, statali via ai pensionamenti. Per il secolo XIX, statali via dal lavoro prima. Queste sono le dichiarazioni del ministro Madia,

E guardate che non è uno scherzo, sull'Italia pendono migliaia di ricorsi alla Corte Europea di Strasburgo contro il trattamento inumano appunto dei detenuti. Alcuni ricorsi sono già stati accolti, altri pendono, pare 3.000 potrebbero essere ricorsi, e l'Italia rischia una multa di 60 milioni di euro, secondo alcuni. Ecco, da qui è nata un'idea che è apparsa sui giornali, subito ha suscitato un mare di polemiche, di questo piano rimediale del Ministero che punta, pare, a dare ai detenuti una cifra tra i 10 e i 20 euro al giorno per ogni giorno trascorso in condizioni disumane, pur di porre fine a un contenzioso di questo tipo. Allora, insomma, parliamo di questo tema, possiamo decidere di non occuparcene, o di potete decidere che non ve ne frega nulla perché delle carceri non ve ne frega nulla, potete deciderne che ve ne frega per una questione di civiltà, no? Voglio ricordare sempre la celebre massima di Dostoevsky, per cui il grado di civilizzazione di una società si misura anche dal livello delle sue prigioni. E se volete potete occuparvene perché è una questione prettamente economica, brutalmente economica, perché poi se arrivano sul groppone ci piovono multe milionarie da parte dell'Unione Europea, ecco, non potete dirlo, non lo sapevamo. Allora, voglio salutare Roberto Castelli, che è ex ministro della giustizia della Lega. Buongiorno Castelli, buongiorno, ben trovato. Dottor Mira, buongiorno, come così come voglio salutare l'avvocato Giuseppe Rosso Di Vita, che è un penalista e anche radicale, è segretario del Comitato Radicale per la Giustizia Piero Calamandrei. Buongiorno Rosso Di Vita. Buongiorno e un buongiorno all'ascoltatore. Tra l'altro lei è anche un avvocato che ha seguito e sta seguendo alcuni di questi ricorsi, anche conosce bene, insomma, tutta questa vicenda anche della famosa prima sentenza, la prima sentenza. Ecco, intanto quanti sono i ricorsi? Davvero 3.000 pendono e 60 milioni è questa cifra che possiamo ipotizzare di multa in arrivo? Beh, la Corte ha fatto sapere che pendono sì circa 3.000 ricorsi, e la cifra indicata è una cifra ovviamente orientativa, perché non si tratterebbe di una vera e propria multa, ma appunto dei risarcimenti che la Corte andrà sostanzialmente a disporre a favore dei detenuti sottoposti a trattamenti inumani e degradanti, cosa che ha già fatto appunto, come lei ricordava, con la sentenza Torreggiani, sì. Sentenza nella quale appunto due dei detenuti ricorrenti erano assistiti da chi parla in qualità di comitato di segretario del comitato radicale. Quanto hanno ottenuto di risarcimento queste persone? In 700.000 euro. 100.000 euro? In 700.000 euro, con cifre variabili per ciascuno in relazione alla durata del periodo di detenzione. Ma quella sentenza Torreggiani è una sentenza importante non tanto e non solo per i risarcimenti danni, ma quanto perché è una sentenza pilota. La Corte Europea di Strasburgo, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha previsto questa procedura straordinaria della sentenza pilota, con la quale la sentenza pilota viene adottata nel momento in cui sono già pendenti davanti alla Corte Europea un numero notevole di ricorsi, tutti sostanzialmente simili a questo, certo. Simile, esatto. E con questa sentenza la Corte ha dato all'Italia un termine di un anno, che andrà a scadere il 28 maggio, appunto, per rientrare nella legalità. Ma è chiaro, ieri infatti, allora, entro maggio scade quest'ultimatum che chiede all'Italia di garantire di fatto in cella ogni detenuto uno spazio minimo di 4 metri quadri sufficientemente illuminato e pulito, assicurare tramite attività sociale all'interno del carcere che il detenuto passi un buon numero di ore fuori dalla cella. Insomma, entro maggio, dottor Castelli, eccoci, ex ministro alla giustizia, leghista, è un tema che annosamente e ripetutamente torna sui giornali. Fa bene, secondo lei, l'attuale ministro Orlando a definire drammatica la situazione? Perché Ma sì, la situazione è sicuramente drammatica perché la si è lasciata diventare tale, perché è vero che la Corte ci ha dato un termine che sta per scadere, ma che questo problema si ponga è ormai un problema che si pone da molti anni. Io continuo ad avere un orgoglio, non ho mai mollato un detenuto ope legis, quindi i detenuti sono usciti dalle carceri italiane quando ero io ministro, sono usciti per questioni di natura giudiziaria o perché avevano scontato la pena o perché il magistrato ne aveva determinato Cioè senza indulti, senza indulti. Perché credo che ci sia un principio fondamentale da difendere, e cioè quello della pena che è prevista da qualunque ordinamento di qualunque paese civile. Noi abbiamo abdicato lasciando che la situazione si incancrenisse e di fatto evidentemente non portando a compimento quel piano, da un lato quel piano di nuove penitenziarie che io con grande fatica e con allora ministro Lunardi abbiamo tentato di varare. E dall'altro evidentemente non prendendo provvedimenti, arrivando adesso a questa possibile soluzione che io spero non sia vera. Ecco, però esatto, è una questione di civiltà certamente, anche che venga rispettata una pena che viene combinata e quindi poi viene erogata e deve essere scontata. Però converrà anche lei che è un principio di civiltà che questa pena sia scontata in condizioni umane. Ma assolutamente, però... Io vorrei far notare una cosa, io ai miei tempi andai a vedere un po' le statistiche degli altri paesi, mi recai in una missione negli Stati Uniti per verificare come stavano le cose, perché se noi dovessimo avere gli stessi detenuti che hanno gli Stati Uniti in proporzione alla popolazione dovremmo avere 400.000 detenuti, pensi 400.000 detenuti. Perché là non ci sono questi problemi? Perché evidentemente hanno affrontato il tema per tempo con una soluzione che io ho cercato di varare, poi cioè quella di costruire nuove carceri? Scusi? Quella di costruire nuove carceri? Quelle... Non solo, ma secondo me l'unica soluzione per evitare poi la resa dello Stato, che può essere una resa che si estrinseca attraverso indulti, attraverso questa cosa che mi sembra veramente incredibile, sostanzialmente di comprare il silenzio dei detenuti, ma penso che non sia così. Insomma. Cioè lei non crede che alla fine non daremo 10 o 20 euro al giorno? Del ministro Orlando come persona, quindi non credo che abbia escogitato una resa dello Stato così clamorosa, ma l'unica via ormai è evidentemente quella di costruire come gli Stati Uniti, come in molti altri paesi europei, dei circuiti differenziati. Lei tenga presente che oggi i nostri penitenziari sono tutti penitenziari attrezzati per ospitare detenuti molto pericolosi, quasi tutti sono così, a parte qualche colonia penale dove le cose sono diverse. Bene, moltissimi di questi detenuti in realtà non sono pericolosi, sono persone che potrebbero essere tranquillamente ospitati in strutture molto più leggere, che si potrebbero apprestare in tempi brevissimi e che potrebbero essere poi presidiati da un numero di agenti di polizia penitenziaria molto più limitato. Molto limitato. Quindi insomma sì, certo, la soluzione di non avere quella che lei chiama una resa dello Stato. Rosso Di Vita, vorrei chiedere questo, avvocato, sarebbe una resa dello Stato? C'è da dire che ieri il ministro Orlando, andando a Strasburgo, non ha parlato di questi 10 euro, 20 euro, non si è fatta menzione, però il piano è apparso sui giornali. Lei trova che sarebbe un comprarsi il silenzio dei detenuti, dare 10 o 20 euro al giorno per ogni giorno passato in condizioni disumane, purché i detenuti recedano ovviamente dal proposito di fare causa allo Stato? Ma io trovo che sicuramente si tratta di una proposta inaccettabile, non c'è un prezzo, diciamo, che si può stabilire per essere torturati, perché di questo parliamo, perché l'Italia è stata condannata per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che appunto vieta trattamenti inumani e degradanti che sono equiparati alla tortura. C'è da dire che il ministro Orlando, mi sembra che ieri abbia nettamente smentito questa ipotesi, fortunatamente, ha fatto altri tipi di affermazioni sulle quali pure non siamo d'accordo, però quello che tenevo a dire anche in relazione alle parole del già ministro Castelli e anche alle sue. Allora, la resa dello Stato c'è ora, perché ora lo Stato non è capace di far rispettare le proprie leggi. Oggi lo Stato è in una situazione di permanente flagranza criminale. Quando il ministro Castelli parla giustamente, dice io sarei orgoglioso di aver fatto scontare la pena, il problema è quale pena, perché la pena prevista nel nostro ordinamento dal codice penale, dai regolamenti penitenziari, dalla Costituzione, dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che sono tutte norme di diritto positivo che disegnano una pena nel nostro ordinamento, sono costantemente violate. Sì. Oggi i detenuti sono sottoposti a delle pene tecnicamente illegali, che sono altro e diverso dalla privazione della libertà personale. Sì. Perché c'è la privazione di diritti fondamentali dell'uomo. Allora, ma è chiaro, questo è il punto. Ma è chiaro, il rispetto della pena, ha capito Castelli, ma quale pena? Poi quale pena? Chiaro, quale pena? Mettiamoci questo, d'accordo. Nessuno questo vuole mettere, come dire, fuori i detenuti lì dove ci sia una pena legale. Ma oggi i detenuti sono essi stessi sottoposti. No, ma mi sembra di fare legali, di poter trasformare questa in una critica, Castelli, a dire lei. No, dice, no, sono un po' l'avvocato. Ho la parola io. Sì, sì, sì, dica Castelli, sì. No, dicevo, sono perfettamente d'accordo con l'avvocato. Infatti credo anche gli altri ministri, ma sicuramente posso dirlo per me, e noi abbiamo cercato in tutti i modi di garantire condizioni di vita umana ai detenuti, e per i miei tempi, quando in carcere c'erano circa 45.000 detenuti, penso in qualche modo di esserci riuscito, sempre in confronto alle condizioni di detenzione di altri paesi. Sicuramente la vita del carcere è dura, però bisogna garantire un minimo di sopravvivenza. Questo penso che col numero di detenuti che c'era a quei tempi si riuscisse a fare. Non si è riusciti a fronteggiare l'aumento molto forte dei detenuti, che è nato per che cosa? Mi lasci qui mettere una notazione di natura politica e anche un po' polemica. Oggi il 50% degli ospiti delle carceri italiane sono stranieri, cioè noi ci siamo portati in casa un numero enorme di persone che delinquono, e quindi ci siamo trovati di fronte a questa situazione. Questa questione. Se ci fossero soltanto italiani, un numero limitato di stranieri, le nostre carceri sarebbero assolutamente adeguate per poter fronteggiare. Ma guardi, su questo tema, dopo la pubblicità, noi avremo ospite anche alle 8.45 il procuratore di Reggio Calabria Nicola Gratteri, che qua in passato, proprio a questi microfoni, aveva detto proprio il problema dei detenuti stranieri è un problema che va affrontato, per esempio, garantendo che scontino magari la pena nei loro paesi. Questo ovviamente va fatto a fronte di accordi tra paesi, perché non è che una persona, un essere umano, ha un pacco postale, lo si porta al confine e lo si lascia. Lascia lì. 24 mattina. Allora, siamo qui a parlare delle condizioni delle carceri italiane, il rischio di multe che incombe sull'Italia, con Roberto Castelli, ex ministro della giustizia leghista, e Giuseppe Rosso di Vita, avvocato dei radicali. Vorrei sentire come ascoltatori Giuseppe da Milano, ci ha chiamato. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno sì. A tutti. Senta, io cercherò di essere conciso perché il tempo è sempre poco. Allora, io trovo giusto che i detenuti siano rispettati, non sono animali, non sono bestie, però trovo che il signor Di Vita faccia solo un discorso di diritti. Rosso, allora io Di faccio Vita, questa provocazione. Sì. Bene, gli diamo 10-20 euro al giorno a questi signori dopo aver fatto i delinquenti. Bene, allora cosa dovremmo dare per esempio a una famiglia che tutte e due perde il posto di lavoro e succede tutti i giorni, caro avvocato Di Vita, tutti i giorni non sanno come tirare avanti. Si chiama Rosso Di Vita, è il cognome. Comunque Rosso Di Vita vuole rispondere. Vabbè, è chiaro che a parte che la questione dei risarcimenti non è stata confermata da nessuno, però insomma l'ascoltatore la mette così in modo un po'... Sì, è un modo un po' così, ma evidentemente sono due situazioni che non c'entrano nulla. Nell'un caso abbiamo delle persone che perdono il posto di lavoro, dall'altra parte ci sono delle persone che sono sottoposte. No, però capisce che il cittadino che ha letto questo possibile piano, per esempio i soldi no, ma anche sconti di pena per coloro che invece sono attualmente detenuti in condizioni disumane, cioè qualcosa di risarcimento. Se uno vuole cercare una transazione, mettiamola così brutalmente, per evitare che le cause vadano avanti, dovrà pur concedere. Ribadisco, per noi non è un problema di transazioni, tantomeno di transazioni economiche, è un problema di rispetto della dignità dell'uomo. perché di questo si tratta. Poi se al cittadino sta bene che con 10-20 euro, sta bene che anche senza nessun tipo di azione da parte dello Stato si continui a rimanere in questa situazione dove noi abbiamo decine di migliaia di persone che sono sottoposte, che sono come dire, considerate delle non persone, perché di questo si tratta. Quando si lede la dignità della persona significa non riconoscere al soggetto che si ha davanti la qualità di essere persona, e questo è ciò che accade. Peraltro tra i 60.000 detenuti, circa un po' meno della metà, Castelli ha detto degli stranieri, ricordiamoci che un po' meno della metà sono sottoposti ad una misura cautelare della custodia in carcere, non sono condannati, sono presunti innocenti. Le statistiche del Ministero della Giustizia ci dicono che circa la metà di questi innocenti sono allo stesso modo sottoposti a dei trattamenti umani e degradanti. Ma è chiaro, qui c'è anche l'altro problema, che moltissime persone in carcere non sono state condannate, sono in attesa di giudizio. La Corte di Strasburgo, nella sentenza Torreggiani, ha scritto espressamente parole di forte stigmatizzazione di questa situazione, che è una assoluta situazione assoluta unicità nel panorama. E qua Castelli, l'Europa anche questo ci bacchetta, so che voi leghisti siete molto attenti all'Europa. Dottore, io però sono andato in giro per il mondo a vedere i penitenziari in giro per il mondo. Io inviterei i giudici della Corte di Strasburgo ad andare a vedere i penitenziari statunitensi, soprattutto quelli di massima sicurezza. Qui adesso non è possibile sviscerare il problema perché abbiamo poco tempo, ma ci vadano a vederli come sono fatti. Cosa ci vadano a vedere come vivono i detenuti, come sono tenuti incatenati. Incatenati negli Stati Uniti, i detenuti di massima sicurezza sono tenuti incatenati. È vero. Nei bracci della morte si muovono spesso devono bacchettare con sempre l'Italia e basta. Ma vadano a vedere, i paesi ci danno lezioni come tengono i detenuti. In Francia mi risulta che ancora oggi non ci siano gli istituti minorili, ma che anche i minori vivano nelle prigioni degli adulti. Allora smettiamo di darci sempre continuamente le bastonate addosso in maniera veramente tafazziana. E credo che i giudici della Corte di Strasburgo dovrebbero guardarsi un po' anche in giro. Questo non vuol dire che il problema non esista. Ripeto, oggi secondo me il problema va risolto facendo dei circuiti alternativi. Noi possiamo in tempi brevissimi abbassare la pressione sulle carceri tradizionali, istituendo, ma si può fare in tempi brevissimi, dei circuiti alternativi a bassa sicurezza, dove mettere i detenuti a bassa sicurezza, che sono decine di migliaia. Secondo me l'unica soluzione è questa. Potrebbe essere questa. Però Castelli, lei dice, io le soluzioni le avevo viste e le prevedevamo, la costruzione anche di carceri, però questo non si può fare in 448. Quindi, voglio dire, fosse oggi ministro, che farebbe per fronteggiare quella che incombe a maggio come limite per dare una risposta a Strasburgo? Intanto non pagherei nessun detenuto, perché questo è veramente, credo, umiliante per lo Stato. E questo anche l'avvocato Rosso Di Vita ha detto, è una cosa inaccettabile. Questo mi fa piacere, siamo tutti d'accordo. Secondo, farei quello che ho detto, cioè intanto non è vero che i posti sono sempre rimasti 45.000, sono aumentati in questi ultimi 10 anni tra ristrutturazioni di vecchi penitenziari e costruzione di qualcuno nuovo che è avvenuto. Io per esempio ho aperto Bollate, che viene considerato un carcere modello, siamo credo intorno oltre 50.000 posti, questo è il dato di fatto. Mi metterei all'opera per mettere in atto quella proposta che ho detto, e poi farei un'altra cosa che è già legge, è l'articolo 17 del testo unico sull'immigrazione, che consente di rimandare al proprio paese detenuti che hanno stranieri che hanno meno di 2 anni da scontare, liberi. Addirittura questo, liberi. Questo è legge dello Stato, ai miei tempi funzionava, ne mandavamo via 100 al mese, adesso non so che fine abbia fatto. L'altra operazione che viene spesso evocata anche da addetti ai lavori, di far scontare la pena a casa degli altri, non si può fare per un piccolo piccolo problema, che è quello che gli altri non vogliono. Appunto, la questione di accordi che bisogna in qualche modo stipulare con gli altri stati. A questo proposito, io per il momento vi ringrazio, voglio andare alle informazioni sul traffico e tra poco, nell'ultima parte del 24 mattino, avevo il procuratore di Reggio Calabria, Nicola Gratteri, che proprio a questi microfoni qualche tempo fa aveva detto proprio questa, la questione degli stranieri, cioè rimandarli a casa loro, nel senso anche piuttosto pagando vitto alloggio di quello che è il costo di un detenuto, ma facendolo diciamo pagare allo stato di provenienza del detenuto. Dottor Gratteri, intanto buongiorno, dopo il traffico sono da lei, un attimo di pazienza. Eccoci qua, allora, Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica, della Repubblica al Tribunale di Reggio Calabria, procuratore antimafia. Allora, Gratteri, lei proprio a questi microfoni qualche tempo fa aveva detto una ricetta si potrebbe fare per le carceri, cioè pagare addirittura noi, Stato italiano, sì, i detenuti, quanto costano i detenuti, e mandarli nel loro paese, no? È fattibile questo o ci vogliono degli accordi specifici? No, guardi, io ho subito l'indulto, quindi ormai è da anni che ripeto come un disco rotto queste cose, cioè poiché nei paesi, gli stranieri in Italia detenuti sono circa 20.000, sono soprattutto dei paesi attorno al Mediterraneo e della Romania, quindi basterebbe che il Ministro della Giustizia facesse accordi bilaterali col suo omologo di questi stati e potrebbe mandare i detenuti all'estero, nel loro stato di provenienza, gli stranieri, e pagare noi vitto e alloggio. Risparmieremmo, perché lì il costo della vita è inferiore rispetto all'Italia, quindi noi avremmo un risparmio e avremmo immediatamente risolto il problema del sovraffollamento. Poi abbiamo il problema dei detenuti tossicodipendenti, che sono detenuti a causa della loro tossicodipendenza, cioè commettono reati per comprarsi la droga. E allora per questi detenuti bisogna, è inutile lasciarli in carcere, il metadone non serve a nulla, è un palliativo. E allora bisognerebbe invece mandarli nelle comunità terapeutiche protette, leggermente modificate rispetto alla comunità terapeutica classica, in modo tale da costringerli a provare a disintossicarsi. Le statistiche ci dicono che ogni 10 tossicodipendenti che entrano in comunità terapeutica, in 4 ce la fanno. Quindi varrebbe la pena salvare 4 ragazzi, salvare 4 famiglie. Questo potrebbe anche ovviare il problema del sovraffollamento. No, è risolto. No, è chiaro, due mosse non c'è più sovraffollamento. Però la questione del trattato bilaterale è una questione diplomatica, è una questione anche delicata, facile. Ma questi sono i compiti della politica, i compiti dei ministri, i compiti dei governi, questi sono. Compito precipuo è avere rapporti con gli altri stati. Io ad esempio le dico che al Ministero della Giustizia è fermo un trattato bilaterale tra Italia e Colombia da 6 anni, fermo in materia di estradizione, in materia di estradizione, in materia quindi di investigazione, estradizione ed espulsione. Sono 3 trattati bilaterali fermi. Io ho parlato ad esempio col presidente dell'Alta Corte colombiana qualche tempo fa, il quale mi ha detto che loro sono pronti, loro sono d'accordo. Quindi da 6 anni e l'Italia non risponde o non coltiva questo, ad esempio, questo trattato bilaterale, quindi è solo un patto squisitamente politico. Quindi lei immagino, da procuratore, lavorando anche su inchieste che riguardano anche il Sud America, lavorando anche in inchieste di traffico internazionale di droga che riguardano la Colombia, questo l'avrà scontato come una cosa negativa questo trattato. Ma è ovvio, guardi, io mediamente ogni 15-20 giorni sono all'estero, sia in Europa, America del Sud, America del Nord, perché purtroppo la 'ndrangheta è l'unica mafia al mondo presente in tutti e 5 i continenti, ma soprattutto in questi 3 continenti si muove con grande disinvoltura ed è molto presente, quindi riesco a rapportarmi continuamente con sistemi giudiziari di 9-10 paesi, e questo mi dà l'idea chiara di come stanno le cose sia in Italia sia all'estero, quindi facendo anche una sorta di comparazione dei sistemi. E le dico che noi siamo carenti nella parte dei trattati bilaterali. Senta, queste cause lei le giudica giuste, cioè queste multe anche che incombono sullo Stato italiano, le giudica un fatto di civiltà? Guardi, io dico questo, l'Italia fa parte dell'Europa, anzi è stata una delle nazioni che ha fondato l'Unione Europea, ma mi pare che l'Italia stia subendo molto l'Europa, cioè io vorrei un'Italia più presente che fosse protagonista del sistema e nel sistema, cioè non è possibile che noi subiamo e basta, cioè di questa multa, di queste multe si parla da anni e vorrei sapere in questo anno e mezzo, in questi due anni, dal punto di vista sostanziale, concretamente cosa hanno fatto, cosa si è fatto, se si è pensato ad esempio, siccome molte carceri non è che sono sovraffollate perché non sono celle libere, sono sovraffollate perché molte celle sono chiuse per mancanza di polizia penitenziaria. Basterebbe assumere un po' di polizia penitenziaria, sì, dice. Ma siccome non ci sono soldi per assumere polizia penitenziaria, non ci sono soldi per fare concorsi, allora siccome c'è un esubero di 20.000 uomini nell'esercito italiano, basterebbe prendere questi militari, metterli attorno alle carceri, metterli sulle mura di cinta, metterli alla reception, metterli all'ufficio matricola e mandare la polizia penitenziaria che ha fatto il concorso, che è stata addestrata per fare trattamento nei reparti e mandare questi nei reparti. Come molta polizia penitenziaria viene utilizzata per fare scorte o per fare reception al Ministero della Giustizia di Via Renola, questa gente si potrebbe mandare benissimo nei reparti per fare trattamento ai detenuti e lì mettere dei civili, mettere l'invalido civile alla reception e non mettere un militare che ha fatto il concorso per fare trattamento nelle sezioni delle carceri. Senta, dottor Gratteri, invece questa cosa dei 10-20 euro in realtà è sparita, non pare che sia apparsa sui giornali di risarcire i detenuti. Non le so dire. È ovvio che sono cose non condivisibili, che non stanno né in cielo né in terra. Senta, dottor Gratteri, c'è questo aspetto che lei non aveva voluto trattare, ma io gliela devo fare la domanda, altrimenti questa cosa del ministero sfuggito, perché ride? Ma è vero, cioè, quanto è stata concreta questa cosa? Su questo punto sarei scorretto con altri suoi giornalisti, perché in un mese sono stato l'intervistato più corteggiato. Ho detto che di questo non ne voglio parlare. Sono altri che devono parlare, che devono spiegare, io no. Però sappiamo... Io sono per i fatti miei e continuo a fare il magistrato a Reggio Calabria e continua ad essere il consulente gratuito di tutti. Il consulente gratuito di tutti non è male, sì. Non è male. Ma lo faccio da quasi vent'anni. Mi dica allora, ieri su qualche giornale è spuntato che si candida a presidente della regione Calabria. No, dite agli elettori, agli ascoltatori di stare tranquilli. Possono stare tranquilli. Continuerò a fare i bagni. L'ultima cosa, almeno è vero che oggi vede Renzi a Scalea, viene a scuola, cioè sta andando a Scalea. Sì. Questo almeno sì. Solo per un saluto. Che gli dire? Che è la prima volta che vi vedete dopo la vicenda, sì. E che gli dirà? Sì. Buongiorno. No, niente, solo saluto e basta. Sono persone molto educate, perché sono figlio di contadini e mi hanno insegnato molto bene l'educazione. E no, perché dovrebbe mica insultarlo? Assolutamente no. Gli dirà buongiorno, presidente. Eccoci qua. Sono Gratteri, sono Nicola. Vi conoscete. Va bene. La ringrazio. Grazie Nicola Gratteri. Ci dobbiamo fermare qui, mi dispiace, non so, Castelli, cosa voleva dire? Ho 20 secondi. Voglio dire che quello che è stato detto è fuori dalla realtà, perché il ministro Fassino e il sottoscritto hanno fatto il giro di tutti i paesi. Siamo riusciti a fare un accordo con l'Albania, dove c'è un penitenziario costruito dagli italiani, e uno con la Romania. E poi? Gli altri paesi semplicemente non vogliono. Non vogliono. A me dispiace che il dottor Gratteri non sia diventato ministro della giustizia. Perché almeno avrebbe dovuto toccare con mano che non si questo può, fatto, che perché non bisogna facile. Fare un accordo bilaterale. È chiaro, se bisogna mettersi in due a firmare. Comunque mi devo fermare qui, grazie a Roberto Castelli, grazie all'avvocato Giuseppe Rosso di Vita dei Radicali. Torneremo su questo tema come su tutti e vi do appuntamento a domani 6:30 puntuali.